giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Incidente mortale sugli sci di ieri sullo Zoncolan, dove ha perso la vita un turista della Repubblica Ceca. Si cerca di ricostruire cause e dinamica dell'accaduto. Sospese da sabato alcune prestazioni sanitarie in convenzione. Lo stop riguarda soprattutto RX, TAC e risonanza magnetica. Le tariffe sono troppo basse e risultano sotto costo. In Consiglio regionale è ripreso l'esame del disegno di legge sul fotovoltaico, dopo che ieri è stato approvato a maggioranza l'articolo che individua le modalità di intervento nelle aree ordinarie. Daniela Fumarola, la neoeletta segretaria generale della CISL, ha chiuso oggi a Palmanova il corso di formazione organizzato dal sindacato regionale. Nominati due nuovi ufficiali al merito della Repubblica Italiana, Pietro Bartaselli e Paola Benini. Questa mattina hanno ricevuto l'onorificenza al Quirinale. Pordenone a Roma ha illustrato le proprie credenziali per la candidatura a Capitale Italiana della Cultura del 2027. I lavoretti estivi, che fino a qualche anno fa erano abbastanza diffusi tra gli studenti, che così davano una mano al loro mantenimento scolastico, stanno cambiando. Alle 12:31 minuti e 30 secondi, ancora un cordiale buongiorno da Lara Zani e Armando Mucchino, a voi con le notizie della TGR del Friuli Venezia Giulia. Si sta lavorando, lo avete sentito dai titoli, alla ricostruzione delle cause della dinamica dell'incidente mortale sugli sci che ieri sullo Zoncolan ha visto morire uno sciatore della Repubblica Ceca di 68 anni. Abbiamo sentito il direttore del polo di promoturismo FVG, Osvaldo Tavosanis. Osvaldo Tavosanis, direttore di polo dello Zoncolan di promoturismo FVG. Quali sono le reazioni da parte di promoturismo all'incidente che c'è stato ieri e cosa volete anche ricordare a tutti gli sciatori che sono sulle piste in questi giorni? Innanzitutto vorrei esprimere il nostro cordoglio per quanto accaduto e ci sentiamo vicini alla famiglia per la perdita, insomma. Poi cosa ricordare? Più che ricordare vorrei fare un appello a tutti gli sciatori che frequentano le piste del Friuli Venezia Giulia, non solo, di osservare le regole base dello sciatore, quindi moderare la velocità in base alle proprie capacità, al tipo di pista che si affronta, alle condizioni della pista, fare attenzione ai cartelli monitori che vengono messi sulle piste che ci segnalano se ci sono dei pericoli, delle problematiche, e fare attenzione a chi ci scia a fianco perché a volte ci possono essere degli scontri. È una cosa che mi sento di spingere ulteriormente è l'uso del casco, perché adesso la legge prevede che il casco sia obbligatorio solo fino ai 18 anni, però dall'esperienza che abbiamo è necessario che tutti quanti usino il casco perché è fondamentale per la sicurezza degli sciatori. E poi, non per ultimo, non abbandonate mai i tracciati delle piste battute e segnalate. Le piste vengono segnalate con delle paline colorate. Ogni colore corrisponde alla difficoltà della pista e all'interno di queste paline, quindi sul piano di pista, c'è la garanzia che tutto sia regolare, quindi non incorrete in pericoli che non potete calcolare. Ecco. Zoncolan, Sutrio, Lillo Montaltomonella, TGR, Friuli Venezia Giulia. E ora uno sguardo al tempo, cielo coperto sulla regione, queste le temperature registrate alle 11. A Trieste Gorizia 13 gradi, a Udine 11 gradi, a Pordenone 10, a Tolmezzo 6 gradi e 5 decimi, a Tarvisio 5 gradi, a Forni di Sopra 4, a Sappada 2 gradi, a Piancavallo 0. Sul Monte Lussario e sul Monte Zoncolan 5 decimi di grado sotto lo zero, a Grado 12 gradi, a Lignano 11 gradi e mezzo. Ed ora le previsioni, cielo coperto con precipitazioni intense sulla costa e sulle zone orientali e abbondanti altrove. Le precipitazioni cadranno nel corso di tutta la giornata, ma nel pomeriggio saranno più intense. Quota neve inizialmente a 1.400-1.600 metri sulle prealpi e a 1.200-1.400 metri sulle Alpi, in calo fino a Fondovalle nel Tarvisiano e a 800-1.000 metri sul resto della zona montana. Nel pomeriggio soffierà bora moderata su pianura e costa e vento da nord in quota, poi in serata la bora si intensificherà sulla costa fino a divenire sostenuta. Domani cielo variabile con ampie schiarite nelle ore centrali della giornata e sulla costa e maggiore nuvolosità di primo mattino verso sera. Nelle ultime ore della giornata sulla costa sulla zona montana saranno possibili delle deboli precipitazioni con quota neve intorno ai 1.000 metri. Fino al mattino soffierà bora moderata sulla costa. La Regione Friuli Venezia Giulia ha due nuovi ufficiali al merito della Repubblica Italiana, Pietro Barteselli e Paola Benini. Questa mattina hanno ricevuto l'onorificenza al merito dalle mani del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Palazzo del Quirinale. Come annunciato a inizio mese, i due imprenditori del Friuli Venezia Giulia, nominati ufficiali al merito della Repubblica Italiana, oggi si sono presentati al Quirinale per ricevere l'onorificenza dal presidente Sergio Mattarella, insieme ad altri 29 cittadini che si sono distinti per l'impegno civile. La motivazione che ha accompagnato la premiazione del pordenonese Pietro Barteselli, 52 anni, è per aver guardato oltre al mero profitto imprenditoriale. Barteselli ha offerto ad un lavoratore in apprendistato nella sua azienda di Brugnera lo stipendio fino alla fine della terapia per un tumore. Ed è stato proprio il giovane dipendente web designer Giuseppe Cannavale a volerlo raccontare. Ufficiale al merito anche Paola Benini, 55 anni, di Udine, per offrire a ragazzi con difficoltà di apprendimento un aiuto concreto per la loro formazione. Tramite la cooperativa Attiva Lab Onlus, di cui è presidente, offre alle persone con disabilità servizi informativi di orientamento al lavoro e di aiuto allo studio. Realizza anche attività come biscottificio e catering per dare lavoro a persone con disabilità. Un grande desiderio del bambino, spiega Benini, è essere adeguato e quindi noi dobbiamo in qualche modo lavorare perché la sua autostima rimanga abbastanza alta, che abbia un senso di autoefficacia. Questo è il nostro obiettivo. Questa mattina nel discorso di apertura della cerimonia Mattarella ha detto: «I vostri comportamenti sono la negazione della solitudine. In questo nostro tempo è paradossale. La solitudine è un pericolo molto alto. Siamo sommersi da immagini e messaggi da ogni parte, talvolta non veritieri. I comportamenti che voi avete adottato rompono questa solitudine». Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Cambiamo argomento. Tariffe troppo basse e addirittura sotto costo. Per questo da sabato sono state sospese alcune prestazioni sanitarie in convenzione. Agende congelate da sabato 1 marzo nelle strutture sanitarie private accreditate della Regione. Tutte insieme hanno deciso lo stop all'erogazione delle numerose prestazioni in regime di convenzione per il servizio sanitario pubblico, oggetto della revisione del nuovo tariffario nazionale in vigore da dicembre, che ha rivisto al ribasso i rimborsi alle imprese del privato accreditato, dalla diagnostica per immagini, raggi, risonanze magnetiche, TAC, alle prestazioni che da ricovero sono ora classificate come ambulatoriali, come ernie, varici, artroscopie. Una presa di posizione drastica e sofferta, con consapevoli del disagio che viene arrecato agli utenti, scrivono in una nota congiunta i rappresentanti delle associazioni regionali di categoria AIOP, ANISAP, ARIS e Assosalute, che ieri, come già in altre regioni, hanno presentato ricorso al TAR contro le nuove tariffe. Si parla di una riduzione compresa tra il 20 e il 60%, fronte però di un incremento di costi importante negli ultimi anni, rilevano i privati. I nuovi rimborsi tariffari, aggiungono, non coprono nemmeno i costi vivi, né considerano gli investimenti per poter garantire la qualità del servizio e di fatto hanno reso insostenibile l'erogazione delle prestazioni, che al momento risultano al di sotto dei costi di produzione e da due mesi costringono le strutture a lavorare in perdita. Si tratta di migliaia di prestazioni giornaliere erogate a supporto del sistema sanitario regionale e del piano di riduzione delle liste d'attesa, ricordano le imprese private. Spiegano che loro è dunque un grido d'allarme per far capire la gravità della situazione, perché soprattutto le strutture più piccole non possono sopravvivere, dicono, mentre anche le più grandi saranno costrette a tagliare investimenti, forza lavoro e prestazioni. Le associazioni chiamano in causa anche la Regione perché apra al dialogo, che scrivono aver atteso pazientemente per due mesi ma che ancora non c'è stato, per arrivare a una soluzione che porti a un'integrazione delle tariffe più colpite dai tagli, considerato anche che quelle regionali da 20 anni a questa parte non sono mai state aggiornate. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. In Consiglio regionale la discussione del disegno di legge 38 sul fotovoltaico. Si è ripartiti dall'esame dell'articolo 5 dopo che ieri è stato approvato l'articolo 4 che individua le modalità di intervento nelle aree cosiddette ordinarie. In fase di approvazione il disegno di legge numero 38 che regola l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale. Al momento sono in corso le votazioni sugli 11 ordini del giorno presentati dai consiglieri e dalla Giunta. La seduta questa mattina ha ripreso l'esame degli emendamenti numerosi presentati dall'opposizione dopo che i lavori erano stati interrotti ieri durante la discussione dell'articolo 5. Tra le maggiori preoccupazioni dei consiglieri di opposizione figurano i 12 mesi, giudicati eccessivi, che intercorrono tra l'approvazione del la legge che sancisce l'esistenza di aree idonee e di aree non idonee per l'installazione di impianti e energia rinnovabile e la pubblicazione della cartografia che definirà nello specifico quali saranno le aree idonee e quelle non idonee. Il timore espresso da più parti è che nel frattempo si verifichi una proliferazione di nuovi impianti in zone che, una volta uscita la cartografia, saranno giudicate non idonee. Secondo i criteri introdotti dalla legge, le aree idonee sono quelle che presentano già un alto consumo di suolo, come ad esempio le aree industriali dismesse, e per queste è previsto un iter amministrativo più rapido, ma, viene fatto notare, a fronte di costi maggiori da parte dell'impresa che dovrà operare in zone considerate più complicate. Su questo l'opposizione ha anche proposto di inserire degli incentivi economici per gli operatori, ma la proposta è stata respinta. Tra gli altri emendamenti, nessuno passato tranne quelli della Giunta, sono state chieste forme di compensazione per i comuni e il territorio da parte dei gestori degli impianti e la compartecipazione dei cittadini e dei portatori di interesse. Trieste, dall'Eurozone, TGR Friuli Venezia Giulia. L'Assemblea dei Sindaci dell'ambito territoriale Friuli Centrale ha deliberato all'unanimità l'elezione del nuovo direttivo. A guidare l'Assemblea sarà Giulia Del Fabbro, vice sindaca e assessore alle politiche sociali del comune di Tavagnaco in qualità di presidente. L'Assemblea si è riunita in comune Udine, ente gestore del servizio. La seduta è stata presieduta per l'ultima volta dal presidente uscente, il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, il quale ha sottolineato il percorso compiuto negli ultimi 2 anni. Prima uscita ufficiale in regione per la neosegretaria della CISL Daniela Fumarola, che a Palmanova ha parlato di crisi industriale e dell'importanza della formazione nel fare sindacato. La formazione è uno dei pilastri del nostro fare sindacato. La leader nazionale della CISL, Daniela Fumarola, parte da qui parlando alla platea presente al Consiglio Generale del Friuli Venezia Giulia Palmanova. Al corso di formazione regionale hanno partecipato oltre 150 delegati, di cui il 40% donne. Obiettivo: preparare quelli che potrebbero essere i futuri operatori e dirigenti dell'organizzazione sindacale, ovvero coloro che dovranno affrontare le future crisi industriali. Sono tante, sia a livello nazionale sia regionale. Sentiamo la segretaria nazionale della CISL, Daniela Fumarola. La nostra azione si sviluppa in due direzioni. La prima, quella di sostenere queste vertenze e cercare il più possibile di contenere le perdite di posti di lavoro. O meglio, noi chiediamo che nei piani industriali vengano contemplate tutele e difesa dei posti di lavoro e ovviamente delle filiere interessate. La leader della CISL auspica un ritorno dell'Unione Europea a soggetto sovranazionale in grado di compiere passi concreti. Revisione del patto di stabilità, impulso a politiche industriali comuni, riforma del Green Deal, protezioni sociali, mutualizzazione del debito e superamento del vincolo dell'unanimità al momento del voto. Il Consiglio Generale arriva alla vigilia per la CISL dell'apertura della stagione congressuale, che mercoledì eleggerà anche i nuovi coordinatori della CISL di Udine e della CISL Alto Friuli, indicati rispettivamente in Giorgio Lazzarini e Fabiano Venuti. Intervenire a livello normativo, secondo il segretario regionale Monticco, è invece l'unico modo per evitare crisi come quella della Flex a Trieste. Palmanova, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ricevuta positivamente dall'azienda la proposta di cassa integrazione per allungare i tempi e permettere a un acquirente, quelli interessati sarebbero 5, di valutare l'acquisizione del sito. Restano tuttavia 2 elementi che rischiano di disperdere i lavoratori e le loro professionalità: la forte penalizzazione dovuta alla cassa integrazione e la rotazione dei lavoratori in cassa integrazione per non lasciarli fuori azienda per lunghi periodi. Questo è l'esito del tavolo di ieri sulla vertenza Oblox, che vede 198 licenziamenti aperti. Su questi 2 argomenti USB Lavoro Privato ha invitato l'azienda a fare le opportune verifiche con la casa madre svizzera, perché senza accordo su questi 2 aspetti, spiega il sindacato, l'operazione di reindustrializzazione rischia di essere un contenitore vuoto. Su questi temi, oltre che su un quadro puntuale sullo stato di possibili acquirenti, il tavolo è stato aggiornato al 12 marzo. USB sottolinea come, a fronte di una procedura di legge che consente la cancellazione dei redditi di 190 famiglie nell'arco di una procedura di 75 giorni, non esista alcun contrappeso reale a garanzia di occupazione e di siti d'eccellenza come la Ublox. Attendiamo le risposte del 12 marzo e ci aspettiamo un'assunzione di responsabilità da parte dell'azienda, la conclusione. Diversamente vanno intraprese tutte quelle azioni, sia di lavoratrici e lavoratori assieme a USB che da parte delle istituzioni, che allontanino Ublox dal territorio nazionale, preservando occupazione, territorio e il settore delle telecomunicazioni. È stata sottoscritta dalla direzione di Asugi e da CGL, CISL e FIALS l'ipotesi di contratto collettivo integrativo aziendale sull'utilizzo delle risorse del fondo premiale condizioni di lavoro. L'accordo consente di garantire l'erogazione dal 1 gennaio di quest'anno delle maggiorazioni sull'indennità di turno notturno, festivo e sull'indennità di presenza, nonché di valorizzare il personale per la copertura dei richiami in servizio al fine di mantenere i livelli di assistenza e la funzionalità di tutti i servizi aziendali. A questo scopo è stato stabilito un impegno di risorse per 4 milioni di euro. Condivisa inoltre la gestione unificata delle risorse del fondo contrattuale per la premialità e le condizioni di lavoro per l'esercizio 2025, garantendo pertanto l'omogeneizzazione del trattamento economico del personale del comparto Asugi. Secondo uno studio dell'Università di Trieste, sono sempre meno gli studenti che l'estate, per mantenersi agli studi, si procurano un lavoro. Studenti d'inverno, lavoratori d'estate, bagnini, baristi, animatori turistici. Una pratica diffusissima un tempo, forse un po' meno oggi. Le famiglie, se possono, sostengono gli studi e i figli ne approfittano. L'Università degli Studi di Trieste ci ha fornito dei dati che dimostrano che gli studenti che hanno fatto almeno un'esperienza lavorativa durante il percorso universitario sono meno che altrove in Italia. 59% qui contro il 66% della media nazionale. Però ci sono sempre delle eccezioni positive e il Recruiting Day a Legnano ieri lo ha confermato. Frequento l'Università Trieste, sto cercando un lavoro estivo più che altro perché appunto necessito di mantenermi al di fuori di casa mia. E in questo momento sto studiando all'università a Venezia. Mi propongo principalmente per barista o cameriera. Io ho 17 anni e faccio lo scientifico scienze applicate. L'anno scorso io ho già avuto un'esperienza lavorativa e facevo animazione. Il turismo però è un settore che attrae i giovani e lo dimostrano i dati forniti dalla direzione lavoro della regione. I giovani rappresentano il 52% delle assunzioni cresciute del più 27% rispetto al 2019. Essendo un settore di natura stagionale, l'assunzione a tempo determinato va per la maggiore e riguarda i giovani per il 46%. In molti casi si utilizza la formula del lavoro a chiamata, per il 32% riguarda giovani. Dati INPS, se il numero di lavoratori l'anno in regione nel comparto turistico è di 15.345 persone, il 60% è rappresentato da giovani, che però hanno stipendi più bassi rispetto alle persone più mature. Se lo stipendio medio lordo annuo nel comparto è di 24.000 euro, per i ragazzi under 34 è quasi un terzo, 9.000 euro. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Si conclude oggi la 2 giorni dedicata alle audizioni delle 10 città finaliste per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2027. Questa mattina nella sala Spadolini del Ministero della Cultura l'audizione del vice sindaco reggente di Pordenone, Alberto Parigi, e degli altri esponenti dell'amministrazione del mondo culturale del territorio. Entro fine marzo il verdetto. Una città industriale, una città operosa, una città della provincia italiana che probabilmente quasi tutti conoscono, ma che forse non tutti sanno dove sta esattamente. Il giorno dell'audizione a Roma per la candidatura a Capitale Italiana della Cultura, Pordenone si gioca le sue carte di città di impresa e di cultura. Unica candidata del Nord-Est, dietro il volto operoso, si presenta come ribelle e capace di sorprendere. Dall'intervento dell'ex sindaco ed europarlamentare Alessandro Ciriani. Sorprenderà perché un territorio così piccolo ha un'offerta che difficilmente si trova in altre realtà così provinciali e periferiche, e sorprenderà, e qui sento di interpretare lo spirito anche di tutta la mia comunità, perché è un territorio piccolo, compatto, ma molto organizzato, che tiene orgogliosamente fede al motto della sua provincia, che dice concordia parves res crescunt, cioè nell'armonia possono crescere le piccole cose e quindi anche le piccole città. Il vice sindaco reggente Alberto Parigi. Questo enorme potenziale è ancora frammentato, in parte inconsapevole e inespresso. La nostra sfida allora è diventare adulti e per compiere questo passaggio abbiamo bisogno di assumerci la responsabilità di diventare punto di riferimento culturale nel panorama nazionale. Dalla Commissione del Ministero della Cultura i complimenti per il dossier puntuale privo di fronzoli che coinvolge il territorio. Credo che abbiate portato un bel pezzo del Friuli Venezia Giulia oggi a Roma, quindi vi diamo atto anche di questo. Complimenti. Una comunità che si muove insieme anche grazie al know-how di Go 2025, ha detto il presidente Fedriga nel suo appello finale. La cultura può essere una grandissima opportunità economica e vogliamo raccontarlo. Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Si inaugurano questa sera con una cerimonia in piazza Tarvisio i campionati mondiali junior di sci alpino. Fino al 6 marzo oltre 60 nazioni provenienti da tutti i continenti parteciperanno al più importante evento giovanile dello sci alpino internazionale. I migliori atleti internazionali di età tra i 15 e i 20 anni, compresi quelli che hanno già debuttato in Coppa del Mondo di sci, si contenderanno il titolo in 6 discipline dello sci alpino, discesa libera e super G, oltre a discipline tecniche come slalom gigante e slalom e discipline a squadre, parallelo e combinata. Siamo al basket, il turno infrasettimanale della 2 vede entrambe le formazioni friulane impegnate in trasferta. La capolista APO Udine è attesa ad una sfida molto impegnativa sul parquet di Sebastiani, Rieti terza forza del campionato che schiera il play Monaldi in forza Udine fino alla scorsa stagione. Sarà un match sulla carta molto equilibrato, anche se i laziali dovranno rinunciare a Harris, mentre Vertemati schiera la squadra al completo. Nell'ultimo turno Rieti ha verso Verona, interrompendo un filotto di 6 successi consecutivi. Inizio alle 21. Torna a giocare la Gesteco Cividale, impegnata sul parquet di Avellino, una delle sorprese del campionato. Le squadre sono divise da soli 2 punti e i gialloblu sono reduci da un ciclo di fuoco con 3 sconfitte su altrettanti incontri. Un successo sarebbe fondamentale per non rischiare di scivolare oltre l'ottavo posto. Indispensabile ormai da diverse settimane Mastellari. Indisponibile ormai da diverse settimane Mastellari, pienamente recuperato Miani, palla 2 alle 20:30. Nell'ambito delle iniziative per l'arrivo dell'Amerigo Vespucci a Trieste, nel tardo pomeriggio di ieri è giunta in città nave Trieste che si è ormeggiata alla stazione marittima. Unità d'assalto anfibio multiruolo, si tratta della più grande unità mai costruita per la Marina Militare e dalla cantieristica nazionale, con 1000 posti letto e un ponte di volo di 230 metri. Costruita da Fincantieri nel cantiere navale di Castellammare di Stabia, varata nel maggio del 2019, nave Trieste sarà visitabile, così come la Vespucci, il cui arrivo è previsto per sabato, intorno alle 13. Era questa l'ultima notizia del giornale radio, collaborato in redazione Valentina Veneruso, per la parte tecnica Samuel Montalto e Paolo Cassano. Dalla Razzani Armando Mucchino, grazie per l'ascolto e l'augurio di buona giornata, dandovi appuntamento al TG delle 14. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.